Salve a tutti, sono Stefania, questa è la 18ª puntata e sono qui insieme ai nostri amici di Radio Big World e il popolo di Barabba. Oggi volevo parlarvi della famiglia a proposito appunto dell'educazione, perché io ritengo che la famiglia sia la prima artefice di quello che sarà poi l'uomo adulto o la donna adulta. Dico la prima artefice perché insomma i bambini nascono, poi i primi ad essere vicini ai bambini sono i genitori, in primis è la mamma, dopo viene tutto il resto. In questi giorni ho avuto alcune testimonianze che mi hanno fatto parecchio riflettere, genitori che dicono: ma guarda con che carattere mi è venuto su, ma guarda, come se i genitori fossero estranei a quello che sono i figli. Beh, se il figlio ti è venuto su con quel carattere, cioè non dire ma guarda come mi è venuto su, guarda come l'ho tirato su. Ecco, ora tanto per usare una terminologia abbastanza spiccia. E un'altra cosa che mi ha fatto riflettere e anche un po' inquietare è l'affermazione di un insegnante che mi ha detto che i bulli nascono così. Beh, ora io detto, se lo diceva mia nonna, gli potevo dire, mi potevo mettere lì a discutere con lei e sicuramente lei rimaneva della sua opinione, ma detto da un insegnante questa cosa mi ha colpito quantomeno. E allora volevo raccontarvi oggi due episodi delle mie esperienze, insomma delle mie esperienze di vita. Tempo fa, voi sapete, credo di averlo già detto in una puntata, che io ho fatto l'università da adulta e in questo periodo mi fu affidato un ragazzo di 20 anni. Questo ragazzo mi era stato affidato perché lui non riusciva ad apprendere appunti, praticamente non riusciva a scrivere, aveva le mani tremolanti e molto piccole. Quindi mi avevano chiesto se potevo fare questo servizio. Ben felice, perché era un'esperienza in più che si andava ad aggiungere al mio curriculum. E oltre all'esperienza umana, chiaramente, anzi in primis all'esperienza umana. E succede che lezione dopo lezione entrai un po' a interagire con questo ragazzo. Certo, non è che ero lì, gli prendevo gli appunti, glieli davo, arrangiati. Cioè si era instaurato una certa relazione. E man mano che i giorni passavano, mi rendevo conto di quanto questo ragazzo avesse un'intelligenza molto spiccata, perché era un ragazzo che leggeva, apprendeva immediatamente e ripeteva con un linguaggio proprio, peraltro, non a pappagallo, ma argomentando, trovando i punti di forza e i punti di debolezza di quello che aveva letto. Quindi anche una persona molto critica. L'unica sua debolezza era questa grande, ma grandissima insicurezza, cioè come se la sua personalità venisse annientata da lui stesso in ogni azione che faceva. Quindi a questo punto entra in azione anche un po' la mia curiosità, ma non curiosità per sapere i fatti suoi, per capire da che cosa derivava questa forte insicurezza che lo faceva veramente star male, un ragazzo che soffriva, si vedeva, e che faceva queste lezioni con me con tanta volontà e tanto desiderio di imparare. E cominciò piano piano a raccontarmi delle cose che gli avvenivano durante la giornata. E a un certo punto si vide che le sue scarpe erano slacciate e gli dissi: guarda, devi allacciarti le scarpe, altrimenti cadi. Questo ragazzo aveva un piccolo difetto, ma veramente proprio minimo, aveva una gamba leggermente più corta, quindi e zoppicava un po', ma proprio sembrava un'andatura più che un difetto, ecco. E lui stentava ad allacciarsi questa scarpa. Dico io: guarda, te la devi allacciare, altrimenti cadi. C'è da fare gli scalini, poi cadi. e vidi la sua grande difficoltà ad allacciarsi la scarpa e mi disse: io non riesco ad allacciarmi le scarpe, un ragazzo di 20 anni, perché me le allaccia la mia mamma. Già qui cominciò un po' la mia inquietudine, perché insomma un ragazzo di 20 anni che le scarpe le allaccia la mamma mi fece un po' riflettere, un po' pensare. I giorni passavano, il ragazzo studiava bene peraltro, e arrivò il giorno dell'esame. Doveva dare l'esame di psicologia generale, era preparatissimo, era davvero davvero tanto preparato. Arriva l'esame, quindi gli faccio gli auguri, bene Giuseppe, in bocca al lupo, anzi in bocca al lupo, e ci vediamo domani. All'indomani dico: Giuseppe, allora com'è andata? Bene, bene, ho preso 27, è andato tutto bene, però lo vedevo schivo, non affrontava, non mi raccontava i dettagli come magari altre volte aveva fatto nell'arco della sua giornata. Quando mi vedeva il giorno dopo mi raccontava, faceva, insomma qui era piuttosto, cercava di evitare l'argomento. Quindi cercai di andare a fondo e lui mi disse: non ci sono andato a fare l'esame. Perché? Perché avevo paura. Avevo paura di non farcela. Io volevo il librettino per vedere se aveva, e non me lo voleva dare. Poi me lo dette e vidi che lui non aveva mai, mai dato un esame. E ai suoi genitori diceva che faceva gli esami regolarmente. Certo non era mio compito telefonare alla mamma e dirgli questa cosa, non ero io che dovevo fare così, però io mi sentivo in dovere di stargli vicino a questo ragazzo, perché avevo capito che era in grave sofferenza. Iniziai così a fare delle piccole domande, veramente piccole: che cosa hai fatto ieri? Ti sei lavato i denti? Ma veramente cose molto molto banali. I denti glieli lavava la mamma, e questo mi fece ancora più inquietare, fino al giorno in cui mi disse che lui non era capace a fare assolutamente niente. E quindi ecco queste mani così piccole, così molli, mani che non avevano mai agito, mani che non avevano mai fatto niente, fino al giorno in cui mi confessò che il bagno glielo faceva la sua mamma e poi gli metteva l'accappatoio e poi lo portava in camera sua e lo imborotalcava come se avesse praticamente 2 mesi. Questo me la disse lunga. A quel punto io dovetti continuare a fare quello che mi era stato detto di fare, quindi sostenerlo nello studio, e così feci, lo accompagnai io personalmente a fare gli esami, lo accompagnai dentro, dette gli esami e naturalmente prese 30, perché è un ragazzo davvero davvero in gamba sotto questo aspetto. E la mamma? Ebbi modo di parlare con la mamma e capii perfettamente perché Giuseppe, un nome di fantasia, era venuto su così. Questo per dirvi quanto la famiglia possa influire, non solo, ma la mamma a sua volta era stata calpestata da sua madre, cioè una vita veramente incredibile. E quindi come nascono poi le dinamiche, no? Come si arriva ad essere adulti? Si passa dalla famiglia, inevitabilmente, dalla famiglia, dalle prime persone che ti stanno accanto, inevitabilmente. E questo ne dobbiamo essere consapevoli. Questo, tutte le famiglie, tutte le mamme, tutti i babbi devono essere consapevoli di questo e assumersi quella responsabilità genitoriale. Non si può pensare di mettere al mondo un figlio e poi, tanto cresce così, e poi vabbè, se è così è colpa degli amici, se è così è colpa dell'insegnante, se è così è colpa del vicino, della società, del governo. No, se è così, mettiamoci una mano sul cuore, diciamo, se è così forse la responsabilità al 90% è nostra. E quindi cominciamo a lavorare su di noi, genitori. L'altro episodio è una signora adulta in pensione che ogni tanto veniva a trovarmi, si beveva un tè insieme. Una signora anche lei molto particolare, era ritenuta praticamente la stolta del villaggio e invece non era così, era una persona anche lei acuta che aveva le sue idee molto originali, molto intelligenti peraltro, una persona coerente con se stessa. E anche lei l'unico suo problema era quello, non aveva assolutamente autostima, cioè lei era la nullità per tutti. Così in una conversazione pomeridiana, mentre si prendeva una tisana, cominciò piano piano ad aprirsi e a raccontarmi della sua famiglia originaria. E anche lì venne fuori una mamma che dalla mattina alla sera gli diceva che non capiva niente. Tu non capisci niente, sin da quando era bambina, tu non sei buona a fare niente, sei una nullità. Questa bambina è cresciuta con la convinzione di non capire niente e quello ancora più terribile è che la sua vita ha preso inevitabilmente, io credo, quella strada di affiancarsi persone che continuavano e perpetuavano questo non capisci niente, dai figli, dal marito e poi dai figli dopo. Lei è sempre stata la persona che non ha mai capito niente, cosa che invece non era assolutamente vera. E così veniva così da me, si parlava, si sentiva, mi ricordo, finalmente libera da questa fascia del non capire niente. Però immancabilmente ormai i giochi erano fatti, insomma, è tornata nel suo ambiente, ritornava la persona che non capiva niente, che non sapeva fare niente. Ecco, questi due episodi per dirvi quanto l'educazione in senso lato e nel senso più profondo della parola passi attraverso la famiglia. Un occhio di riguardo i nostri amministratori dovrebbero dare alla famiglia, non perché per educare le famiglie, ma per mettere loro a disposizione gli strumenti affinché le famiglie siano meno sole e meno allo sbando, meno ostaggi di un'informazione, come stiamo vedendo, ci sono le televisioni commerciali che secondo me sono dei criminali, agiscono con i crimini per l'umanità, perché viene fuori da questa induzione una società davvero, come dire, campata in aria. Ecco, mi viene proprio da dire questa proprio campata in aria, dove non esistono valori, dove esiste solo l'arrivismo. Questo l'ho detto tante altre volte, ma è purtroppo è quello che vedo, è quello che vorrei modificare, ma non so davvero come fare se non attraverso i miei sfoghi del giovedì qui a Radio Big World e nelle varie attività di volontariato che faccio, ma che sono davvero quasi niente, però mi sento sollevata facendo queste cose. Ecco, le famiglie non dovrebbero essere più ostaggio di questi criminali. Ecco, i nostri amministratori dovrebbero avere un occhio di riguardo nei confronti di questi nuclei sociali, perché poi saranno loro che formeranno quella che sarà la società odierna e quella che sarà la società futura. Vi ringrazio e ci risentiamo alla prossima puntata.